mal das Beste mit dem Kopf. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Canale 10, c'è qualcuno? Ora c'è qualcuno su 10? Ora attenzione, canale 10, c'è qualcuno?